Europa 24. Buongiorno da Gigi Donelli. Oggi dunque si riparte dal Consiglio Affari Interni. Una nota britannica dice: dobbiamo rimandare i migranti economici nei loro paesi d'origine, dobbiamo avere tolleranza zero per chi abusa del nostro sistema di asilo. Dunque sui rimpatri vogliamo che l'Europa faccia di più. Questa è Theresa May, segretario di Stato britannico per gli affari interni, al suo arrivo al Consiglio UE. Sentiamo i dettagli. I 28 daranno oggi in Lussemburgo, durante una riunione dei ministri degli interni, il loro benestare al piano presentato dalla Commissione europea per meglio organizzare i rimpatri dei migranti senza diritto d'asilo. L'obiettivo è di trasformare il rimpatrio in un'operazione più europea e meno nazionale. Nel 2014 meno del 40% delle persone a cui era stato dato l'ordine di lasciare l'Europa è effettivamente tornato nel suo paese d'origine. Il piano comunitario, che prevede finanziamenti per 800 milioni di euro, è un tassello della nascente politica europea nel delicato campo dell'immigrazione. Circa 630.000 persone sono entrate clandestinamente in Europa dall'inizio dell'anno. Il rimpatrio dei migranti senza diritto d'asilo è l'altra faccia della medaglia, che prevede il ricollocamento di 160.000 persone arrivate in Grecia e in Italia. Per il governo italiano l'operazione di rimpatrio è un aspetto cruciale della nuova politica europea, tenuto conto della nutrita presenza di migranti clandestini sul territorio nazionale. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E ora parliamo di vino. L'Italia batte la Francia, torna ad essere il primo produttore mondiale. Lo rivela la stima della Commissione europea, effettuata sulla base delle cifre comunicate dagli Stati membri a settembre. La Francia lascia all'Italia il posto di primo produttore di vino al mondo. Secondo le stime della Commissione europea, effettuate sulla base delle cifre comunicate dagli Stati membri a settembre, nella campagna 2015-2016 l'Italia produrrà oltre 48 milioni di ettolitri di vino, segnando un aumento del 13% rispetto all'annata 2014-2015. Scende al secondo posto la Francia con 46 milioni e mezzo di ettolitri, meno 1%, seguita dalla Spagna con 36 milioni, meno 5%. Il terzetto di testa stacca di gran lunga tutti gli altri paesi europei, con Germania e Portogallo rispettivamente al quarto e quinto posto, ma con quantitativi fermi a 8 e 6 milioni. Nell'eterno derby tra le due regine europee del vino, a fare la differenza ogni stagione sono soprattutto le condizioni meteo. Lo scorso anno il clima particolarmente sfavorevole fece crollare i rendimenti italiani, mentre la patria del Bordeaux riconquistò lo scettro. Quest'anno è avvenuto il contrario. I dati di Bruxelles evidenziano il primato italiano nel 2015 anche per quanto riguarda le esportazioni in termini di eccellenze DOC e di OCG. Se si guarda però al valore dei vini esportati, i francesi restano imbattuti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Infine una breve sull'immobiliare. Nel secondo trimestre i prezzi dell'immobiliare nell'eurozona sono saliti dell'1,1% e nell'UE del 2,3% rispetto all'anno prima. L'Italia registra invece il secondo calo maggiore anno su anno, con meno 3%. Questo è un dato Eurostat. Peggio, diciamo, per il valore dell'Italia fa soltanto la Lettonia, meno 4,4%. Con questo è tutto, ora lo sport, noi ci risentiamo domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.